Chi dice che il cuor non invecchia, che ha sempre 20 anni, si illude perché il passato è una breve tastiera, ogni tasto è una nota che muore. Ed una pianola rispecchia l'amore e gli affanni che vivono in me, nel rimpianto di tante canzoni, bel ricordo d'un dolce abbandono. Vecchia pianola d'un tempo passato, pur se la voce tertaglia una nota stonata, ogni canzone si invola sui tasti ammuffiti per ricordarmi qualcosa che è già tramontata. Donne strette, canzoni a campana e balletti e dispetti, nostalgia di una stretta di mano, una stretta che ancora nel cuore. Vecchia pianola d'un tempo passato, sulla tastiera dei sogni è volata una vita. Che vuole distrugge la forza che in me è la vita che passa e divora e consuma ogni cosa in un'ora. Andiamo mia bella pianola, che il tempo che fugge non torna, perché a braccetto pian piano per via canteremo con malinconia. Il bel tempo.